la mia essenza che mi scuote da dentro come un terremoto, casco nel vuoto, tutti i scenari della mia vita rinchiusi in un album, in una foto, sta ormai fuori tutto spento, sento solo il ronzio delle auto che passano e poi odore di quel latte di cemento, ma sai ogni lamento mi passa attraverso, mi sono accorto che ogni testo che progetto, tutte le parole che scrivo mi vengono di getto, ma devo essere sincero, ogni critica la respingo, la rigetto, ma a differenza di voi vermi dico quello che sento e credo per questo sia entrato come in sì già con una penalità, e amico non credere che fra ogni sì ci sia questo amore fraterno, ricordo non vuol dire niente se ti chiamano fratello, perché alla fine tutti pensano per sé, perché ognuno desidera il proprio pezzo di celebrità, ma se in questo business non fosse così non ci sarebbe la sua normalità, ma prima o poi trionferà, solo che la verità è già. Recupererò ogni lacrima che ho versato, ora bisogna pensare al presente, non ai momenti tristi del passato, continuando a raccogliere amuleti e croci che il tempo ormai ha lasciato, non so cosa farò nel futuro, lo deciderà solo il fatto. Recupererò ogni lacrima che ho versato, ora bisogna pensare al presente, non ai momenti tristi del passato, continuando a raccogliere amuleti e croci che il tempo ormai ha lasciato, non so cosa farò nel futuro, lo deciderà solo il fatto. Se non troverò posto in questo mondo, lo troverò sicuramente nell'aldilà. L'unica cosa che voglio è ritrovare la mia felicità, perduto ormai da tempo, o rifarmi pagare tutti i secondi sprecati da gente che li venderei molto volentieri nelle bancarelle dei mercati. Se io sono nato pacifista, grazie a questo business diventato fantasista, cambiato più di una pista, bruciato più di una rivista. Io non credo di essere né il primo né l'ultimo della lista. Io non ho paura del mio avvenire, anzi spero da ora in avanti di non dover più soffrire e non voler più infarire ad ogni persona che ha qualcosa da dire, che mi dice fai schifo, ma alla fine quello che sento lo scrivo e solo con la musica mi sento di nuovo vivo. Pensa a te, che per mandare la gente sulla difensiva basta un avviro. Alla gente che mi vorrebbe smantellare vi dico che non mi potrete ammazzare, io sopravvivo ogni sia, perché si sa che ogni comportamento negativo può cambiare una persona, specialmente l'invidia. Lacrima che ho versato, ora bisogna pensare al presente, non ai momenti tristi del passato, continuando a raccogliere amuleti e croci che il tempo ormai ha lasciato, non so cosa farò nel futuro, lo deciderà solo il fatto. Recupererò ogni lacrima che ho versato, ora bisogna pensare al presente, non ai momenti tristi del passato, continuando a raccogliere amuleti e croci che il tempo ormai ha lasciato, non so cosa farò nel futuro, lo deciderà solo il fatto. E non serve a niente piangersi addosso, pensa a te, ti ho distrutto già e non mi sono neanche mosso, perché ogni rimorso come un cane che per tutta la vita rincorre un osso, perché ricordo io posso fare qualsiasi cosa che mi passa per la testa, perché io non ho paura di qualche pregiudizio, perché la mia passione per me è come un vizio, non posso farne a meno e tirerò anche avanti bastardi, ma sai qualcosa si è mosso, c'è qualcosa di diverso, come ogni mio verso infinito come l'universo, ogni giorno guardo l'orizzonte sperando di trovare il mio nemico e alla fine ce l'avevo di fronte, per colpa di questa società ormai sono come un cieco, vorrei essere in cima di un monte per sentire solo il mio eco, in mezzo alla natura, fuori da tutto, mi sembra di essere in paradiso, come se il mondo fosse diviso, come lacrime che cascono come granelli di riso. Recupererò ogni lacrima che ho versato, ora bisogna pensare al presente, non ai momenti tristi del passato, continuando a raccogliere amuleti e croci che il tempo ormai ha lasciato, non so cosa farò nel futuro, lo deciderà solo il fatto. Recupererò ogni lacrima che ho versato, ora bisogna pensare al presente, non ai momenti tristi del passato, continuando a raccogliere amuleti e croci che il tempo ormai ha lasciato, non so cosa farò nel futuro, lo deciderà solo il fatto. Ok. And G16, Strillel Production. Production.